2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, questa è la nostra versione estiva ridotta il sabato e la domenica per tutto il mese di agosto e anche il primo weekend di settembre. Poi torneremo con la nostra programmazione regolare. In questo mese ascolteremo alcune delle migliori interviste che abbiamo realizzato in questa stagione, poi ovviamente anche alcune notizie. Presidiamo sempre il territorio. Vi ricordo che assieme al collega Simone Spezia per questo mese di agosto e all'inizio di settembre 5 puntate vi offriremo di un programma che abbiamo realizzato intitolato Codice Sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Parleremo sì di tecnologia, ma anche dell'impatto economico, dell'impatto sociale, del valore dei dati, della tecnologia, in onda il sabato alle 16 e domenica alle 10. Poi ovviamente trovate anche la versione podcast. A proposito di colleghi, questa settimana ho fatto una chiacchierata con il collega Andrea Biondi del Sole 24 Ore e visto che alcuni ascoltatori mi hanno scritto nelle ultime settimane dicendo ma com'è che l'Agicom ad un certo punto aveva annunciato che la fatturazione degli operatori telefonici doveva essere mensile e non ogni 4 settimane? È vero che non è un tema di cui ci occupiamo a 2024, il tema della fatturazione, però il tema dei prezzi è legato all'accesso alle tecnologie, quindi è un tema molto importante. E il collega Andrea Biondi ha scritto questa settimana sul Sole 24 Ore online un ottimo, ha fatto il punto della situazione, un ottimo articolo su questa fastidiosa pratica delle società telefoniche di passare dalla fatturazione mensile, che dovrebbe essere la cosa ovvia e normale, a quella ogni 4 settimane, un'invenzione di qualche furbone, non so se del marketing o di qualche altro ufficio. Sicuramente italiano, perché non mi sembra che all'estero ci siano cose del genere, oppure se ci sono segnalatemele e sicuramente ne parleremo, però non mi sembra che ad esempio gli Stati Uniti, che fanno del rispetto del consumatore una delle prime regole, abbiano mai fatto fatturazione ogni 4 settimane. Allora, effettivamente in marzo Agicom aveva detto che per la telefonia fissa l'intervallo corretto di fatturazione è quello mensile e non quello ogni 4 settimane, che di fatto aggiunge un ciclo di fatturazione all'anno, quindi aggiunge un abbonamento tra virgolette mensile ogni anno, quindi invece che 12 fatturazioni se ne fanno 13, ed è un modo subdolo per alzare i prezzi. La Agicom aveva dato, aveva obbligato quelle società che avevano 90 giorni per adeguarsi, ma visto che, provate a indovinare, quasi tutte hanno fatto ricorso al TAR, bisogna ora attendere il solito giudizio del Tribunale Amministrativo per vedere chi avrà ragione. Secondo me è un comportamento scorretto, non tanto nei confronti dell'Agicom, mi sembra abbastanza inutile dire ah ma l'Agicom non ha potere su questa, ma se Agicom vi ha tirato le orecchie per una cosa che qualsiasi consumatore al mondo ritiene subdola e assurda, prendetene atto, tornate indietro e dice beh, abbiamo fatto una stupidaggine, abbiamo fatto una cosa scorretta. Dicevo, non è tanto una scorrettezza nei confronti di Agicom o della legge, semmai ci sia una legge che può intervenire su questo ciclo di fatturazione, ma secondo me è scorretto nei confronti del consumatore. E visto che queste aziende sono fra quelle che dichiarano che il consumatore è al centro, e poi non possono comportarsi in questo modo, bisognerebbe dire per una serie di motivi che sono questo, questo e questo, XYZ, aumentiamo i prezzi. Punto e basta, non trovare degli escamotage che sono veramente fastidiosi, visto che già la gente, basta leggere i commenti sui siti internet, sui forum, è adirata nei confronti di moltissime società di telefonia mobile, non mi sembra il caso di girare ancora di più il coltello nella piaga. E vabbè, alcune notizie in breve della settimana, comunque andate a leggere Andrea Biondi sul Sole 24 Ore che vi racconta un po' come stanno le cose. Alcune notizie in breve nelle nostre digital news. Digital News. A proposito di telefonia, sono stati scelti i migliori progetti del bando per la sperimentazione del 5G in 5 città italiane. Abbiamo parlato recentemente di San Marino, che ovviamente non è una città italiana, quindi il progetto di San Marino con TIM è a parte e si somma a queste altre 5 città. Allora, i progetti che sono stati premiati dal Ministero dello Sviluppo Economico sono Vodafone per la città di Milano, Wind 3, che è un'unica società, e Open Fiber per Prato e L'Aquila, Telecom Italia, Fastweb e Huawei per Bari e Matera. Poi ci saranno alcuni altri passaggi a settembre, quindi si parla dell'inizio della sperimentazione verso fine anno. Una notizia che riguarda Spotify, che è ancora in calendario, non ha ancora stabilito la data, ma diciamo ha come obiettivo la quotazione in borsa e quindi ci tiene a far bella figura in questi mesi, ha comunicato di aver raggiunto 60 milioni di utenti paganti, che è una bella cifra visto che Apple con Apple Music ne ha circa la metà, su un totale di 140 milioni di iscritti, perché sapete che Spotify ha anche la versione gratuita e quindi molti sono iscritti senza pagare, con alcune limitazioni di vario genere, ma comunque con un ottimo servizio. Alcune notizie che arrivano dalla Russia e dalla Cina. Allora, la Russia vieterà a partire da novembre l'uso delle VPN, che oltre ad essere sistemi utilizzati da chi viaggia per lavoro per accedere ai dati aziendali attraverso una rete protetta e cifrata, questi sistemi servono anche per aggirare i blocchi imposti in uno Stato per accedere in forma protetta ad un particolare sito internet. È un modo per aggirare le forme di censura. Devo dire che negli stati democratici è un modo per aggirare certe limitazioni del diritto d'autore o dei diritti geografici. Ad esempio, se siete in un paese straniero, siete abbonati, che ne so, a Sky e volete vedervi la Formula 1, vi salterà fuori un messaggio che vi dice: guarda che in questo paese il tuo abbonamento non è abilitato. Se voi utilizzate una VPN, impostate in un certo modo, fate credere al sistema di essere in Italia e potete, anche se siete all'estero, è un escamotage, e potete vedere tranquillamente il vostro programma preferito, anche se non si potrebbe, effettivamente è una limitazione un po' assurda, visto che voi siete abbonati sia che siate in Italia o che siate all'estero in viaggio. Comunque, questo è l'annuncio che ha fatto la Russia questa settimana, però in quel caso il problema è un po' più grave, perché in Russia vengono bloccati certi siti internet che magari parlano male del governo russo, e questo era un modo per aggirare le forme di censura. Oltre alla Russia, le VPN sono vietate anche in Cina da molto tempo, anche se qualcosa ogni tanto sfugge. E questa settimana Apple ha accettato di rimuovere tutte le app VPN dalla versione cinese dell'App Store, appunto, di Apple. Ovviamente l'obiettivo principale sia in Russia che in Cina e di altri paesi che vietano le VPN è quello di limitare la libertà di accesso all'informazione verso certi siti internet. Questo è un tema importante, un tema molto interessante, e magari ne parleremo nella nuova versione autunnale di 2024. Parleremo magari di tanti sistemi che servono in maniera legale, in maniera anche abbastanza semplice, per limitare i dati che noi mettiamo in rete. Ad esempio, un sistema VPN potrebbe servire per evitare di mettere online certi dati, certe informazioni di navigazione che anche in Italia magari un utente non vuole mettere online. Un'ultima notizia riguarda una piattaforma di prenotazione di noleggio di posti barca e di barche vere e proprie in tutto il Mediterraneo, di cui avevamo parlato, che è Marina Now. Allora, Marina Now ha annunciato questa settimana di aver chiuso due aumenti di capitale per complessivi 1,2 milioni di euro. Visto che siamo in Italia, gli aumenti di capitale per le start-up non sono cose frequenti, soprattutto aumenti di questo genere non sono cose frequenti, negli Stati Uniti sarebbero briciole. Questo è un annuncio importante. Marina Now ha un database con quasi 500 marine, quindi 500 porti dove potete prenotare il posto barca e 9.000 tra imbarcazioni a vela e a motore che si possono prenotare. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Adesso per noi c'è una breve pausa, poi riprenderemo con Antonio Tombolini, che recentemente è venuto nei nostri studi a parlarci del futuro dei libri digitali. E secondo alcune previsioni fatte in un gruppo di lavoro che si incontra ogni tanto con i collaboratori dell'azienda che distribuisce i libri digitali di Antonio Tombolini, una delle previsioni è che i libri digitali in futuro costeranno zero. Cioè non costeranno nulla, saranno gratuiti. Per quale motivo? Anche grazie all'intelligenza artificiale questo accadrà, ma ovviamente di fronte a questa prospettiva bisogna reagire in qualche modo. Ne parliamo tra poco a 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Dunque, vorrei riproporvi la riflessione di Antonio Tombolini, che è amministratore delegato, nonché uno dei fondatori di StreetLib, si occupa di distribuzione di libri digitali, si occupa di libri digitali, di ebook da molto tempo, è sicuramente uno degli esperti più brillanti in questo settore in Italia, ma non solo in Italia, visto che si occupa di questo anche in altri paesi del mondo. Una riflessione nata da una considerazione che tra pochi anni, soprattutto grazie all'intelligenza artificiale, alcuni libri diventeranno gratuiti, perché il costo di produzione dei libri tenderà allo zero. Ma già oggi ci sono autori che, proprio grazie alla tecnologia, grazie a internet, grazie alla capacità di autoprodurre libri, di pubblicarli in autonomia, pubblicano libri che sono gratuiti. Per quale motivo lo fanno? Per vari motivi, uno fra tanti, sicuramente il principale è quello di accreditarsi come esperti in un settore. Se tu sei esperto di pomodori, potresti scrivere un libro sui pomodori e accreditarti come esperto. Essendo il libro gratuito, molto più facilmente finisce sotto gli occhi di gente che è interessata a quell'argomento, e quindi il fatto che tu sia esperto e sia magari molto bravo in quel particolare settore si diffonde molto più facilmente. Allora, adesso facciamo un ragionamento sul cambiamento dettato dalla tecnologia e di come anche un'azienda che è all'interno di questo mondo, di questo mercato che cambia, ma vale per tante altre aziende, come può o deve reagire. Un'azienda come quella di Antonio Tombolini, che guadagna una percentuale sul costo di un libro che lei contribuisce a distribuire, di fronte a una prospettiva di libri che possono e diventeranno gratuiti, grazie o a causa della tecnologia, come reagisce e perché ci si butta dentro per studiare questo mercato, per capire come sta cambiando il mercato? Diciamo che la funzione di aprirci a quest'area è proprio nel costringerci e nel creare una certa pressione all'interno, perché questa domanda non sia solo la domanda che ci siamo fatti nell'occasione di un meeting e poi pensiamo ad altro, ma sia una domanda che si fa sempre più pressante giorno per giorno. Come far fruttare quel 10% di opere che tendenzialmente domani diventerà 15, 20, 90% in un modo diverso da quello della vendita a cui siamo abituati oggi? Non abbiamo risposte pronte, cominciamo ad accennarne alcune. Sì, allora questo è interessante, perché voi state dicendo: noi non sappiamo bene come sarà questo mondo e cominciamo già oggi a sperimentare, che è quello che io dico spesso che dovrebbero fare le aziende oggi di fronte a sfide tecnologiche. Pensiamo a quando parliamo di industria 4.0. È una cosa complicatissima e quello che le aziende dovrebbero fare è cominciare a sperimentare per capirci qualche cosa. Non è che ci si può capire facendo un incontro con un consulente in un mese, due mesi, sei mesi, ci vorranno anni per comprendere questo fenomeno. Però l'importante è cominciare a comprendere queste trasformazioni tecnologiche. Quindi questo è un po' quello che state facendo. Esattamente questo. Cioè, per capirci qualche cosa bisogna starci dentro. Sì, sì. Questa è la verità. Perché non è nulla di già accaduto. Quindi non ci sono gli esperti

Riflessioni sempre interessanti di Antonio Tomborini. È tutto per questa puntata di 2024, versione estiva del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Non dimenticate il programma che vi proponiamo con Simone Spezia, io e Simone Spezia, Codice Sorgente, durante la nostra estate, sabato alle 16, domenica alle 10, oppure anche in podcast. In questa versione invece di 2024 noi torniamo la prossima settimana fino alla fine del mese di agosto, inizio del mese di settembre, poi torneremo alla nostra programmazione consueta. L'augurio di un buon ascolto con i nostri programmi.